nascerò e nel cielo della vita volerò. Mi sembrava la città. Ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età.